Beh. Chapeau. E mangio e bevo e faccio quel cavolo che mi pare e alla fine torno a scuola e sono distrutto. E mangio e bevo e faccio quel cavolo che mi pare e bestiolina, non fa chiasso quando cammina, ha un codino lungo e fino, che cos'è? Un topolino. Trump.

Questa era l'ora di musica di Riccardo Lolli e siccome l'ha appena postata su SoundCloud, che fare? È durata 12 minuti e 57, ma l'abbiamo suonata per intero. Poi fra l'altro non mi ero neanche accorto che c'era anche la mia voce, per cui naturalmente i maligni penseranno che l'ho suonata per far sentire la mia voce, perché non mi basta mai, no? Non basta avere un'ora di coxo spaziale ogni venerdì sera. E infatti benvenuti, questa è la puntata numero 215 di Coxo Spaziale. Come al solito siamo registrati, come al solito siamo senza Fedra, ormai sta diventando un disco rotto. Tanto per cambiare, il motivo per cui di nuovo anche oggi Coxo Spaziale è registrato è perché io questa sera sono a Modena. Infatti facciamo finta che questa sia già una menzione, anche se non lo è, perché stasera inaugura Europe Borderlines Islands, una mostra personale di Lucia Prandi in un posto abbastanza inusuale, questo negozio di Modena che si chiama Bensone o Benswan, chi lo sa. È un locale dedito alla, alla street art, diciamo, o comunque all'arte veloce e spruzzata tendenzialmente, mentre invece abbiamo all'interno una serie di fotografie scattate in Irlanda, Islanda e Bretagna di Lucia Prandi nell'ultimo, più o meno nell'ultimo decennio, che esplorano l'idea di confine relativo all'Europa e anche all'idea di dove sta andando questa Europa. Mentre invece sto cercando di convincere Haru Suzuki a preparare un coxo spaziale per me quando io non ci sarò, visto che Fedra è completamente scomparsa, e cioè quando io non ci sarò, non nel senso che mi butto dall'ultimo piano dell'Accademia Albertina, anzi, no, dicevo quando, perché ci sarà una settimana alla fine di aprile, inizio maggio, anzi la prima settimana di maggio, il 4 maggio non ci sono, per cui sto cercando di convincerla a fare una trasmissione in cinese al posto mio. Non ci sto riuscendo, però nel frattempo lei, che ha una trasmissione in cinese online in questa piattaforma che si chiama Lici FM, possiamo ascoltarla, anzi io la sto registrando di straforo senza il suo consenso e poi probabilmente mi querelerà uno di questi giorni. Non c'è niente, 春秋香 秦始皇 江浙三更年道，朝朝游魂荡。流泥中重林平步人思量，远山峨黛明眸闪亮。月华春妆，一身清扬，自见已别无所望。只愿青石宫外，遥想。 声音有点大，这歌还蛮适合清明节唱的。 Coxo spaziale。 L'angolo della menzione. Ed eccoci qui all'angolo della menzione. In realtà abbiamo una sola menzione, ovvero che domani comincia il Festival Power Art 2018, da domani al 21 luglio. Il direttore del festival è Fabrizio Cavallaro, che abbiamo sentito al telefono. Performance, ricerca, teatro. Siamo al telefono con Fabrizio Cavallaro, il presidente, si può dire, no, direttore, il direttore di questo festival che si chiama Power Arte 18, sbaglio? Ciao Fabrizio. Ciao, sì. Hai detto bene, sì, direttore più appropriato, presidente spaventoso. Presidente spaventoso, infatti, credo che nessuno in realtà voglia fare il presidente di questi tempi. E che cos'è questo festival? Io ammetto la mia ignoranza e devo dire che non so assolutamente nulla. Festival di tutte le arti si chiama, la terza edizione. Esatto, Esatto, è un festival un po' folle, nato ormai nel 2016, anche se c'era stata un'edizione zero, che era stata una piccola festa che poi mi ispirò l'idea di organizzare un festival vero e proprio. È un festival assolutamente indipendente, organizzato da vari gruppi di piccoli artisti o giovani artisti che provano di fare un loro percorso nei vari settori di espressione, che sono un po' attivi nella città, come il cinema, il teatro, la musica, la fotografia, l'arte visiva e la poesia orale, anche insomma tutte queste forme che abbiamo cercato di mettere insieme per darci un sostegno reciproco, diciamo. No, infatti devo dire che è un po' il vostro concept è molto simile a quello della nostra trasmissione, per cui mi fa molto piacere averti ospite, malgrado che questo sia telefonico, qui a Coxo Spaziale. Adesso oggi purtroppo Fedra non c'è, ma lei si occupa soprattutto di teatro, io mi occupo soprattutto di arte contemporanea, ma questo festival sembra quasi cucito apposta per noi. Ma ti volevo chiedere, ma questo nome, Povera Arte, da dove viene? Ma viene un po' dal caso, fu un'idea di un primo collaboratore che faceva anche le grafiche, perché quando organizzammo questa prima festa eravamo tutti giovani, quindi un po' ironicamente eravamo chiamati dell'arti povere. Poi in realtà, quando abbiamo un po' modificato l'idea diventando un vero festival, abbiamo voluto tenerla perché era divertente, un po' perché noi siamo poverissimi, infatti ci autofinanziamo completamente, non abbiamo sponsor, non abbiamo finanziamenti del comune, quindi insomma, o delle istituzioni, quindi un po' rimane per noi, un po' rimane anche quel termine ironico di povera arte, no? Come povera Italia, povera arte, dove siamo finiti un po' con le mode di oggi e degli ultimi decenni, con la modernizzazione. Si è perso magari un po' tante volte in certe dinamiche, quando si parla di espressione artistica, secondo noi si è perso un po' il focus. E poi il povera arte può anche essere, può significare anche un po' di vera arte, rifacendoci un po' all'autenticità che cerchiamo di raggiungere, che cerchiamo di mettere in mostra soprattutto. Eh certo, perché effettivamente anche il mondo dell'arte è diventato tantissimo mercato e molto poco contenuto ultimamente. Esatto, esatto. E mi sembra che questo festival voglia andare contro proprio a questa idea. Sì, sì, sì, assolutamente sì. Quando iniziamo il primo anno fu abbastanza emblematico che aprimo la prima edizione poco dopo quella famosa mostra che ci fu, che insomma, quando Blu cancellò tutti i suoi murales. Certo. Partivamo proprio da quel momento lì. Quindi sì, c'è sempre questa lotta che è anche interessante, perché a livello anche di pensiero, di ragionare su dove finisca l'arte, dove inizia il mercato, dove possa esistere l'una senza l'altro, senza le interferenze dell'altro, è sicuramente un ambito che non sarà mai concluso, però dal punto di vista nostro abbiamo la possibilità di valorizzare un'arte giovane che cerca ancora di pensare non solo tanto al contenuto magari politico, ma anche proprio alla possibilità artistica, alla possibilità espressiva, come una possibilità di comunicazione di una propria urgenza, di una propria necessità, che trascende e prescinde il mercato. Poi quello che viene dopo, chiaramente, sempre quella è la destinazione, però certo. Cerchiamo sempre di tornare al momento della concezione, della creazione. Del momento vero, certo. Stavo guardando, il programma è ricchissimo, si parte da domani, sabato 14 aprile, dalle 6, no, la giornata inaugurale, la presentazione è domani alle 6 ad Ateliersi, in via San Vitale 69, e però in realtà comincia ancora prima, dalle 2 c'è il reportage di viaggio, un workshop di fotografia. Vedo che ci sono veramente tantissime cose, una 8 giorni intensissima. Qual è l'highlight, che cosa ci raccomandi? Beh, assolutamente sì, sono 8 giorni super pieni, Sicuramente sabato e domenica siamo solo alla TDC, quindi è facile trovarci, è assolutamente imperdibile lo spettacolo Flusso, che è una performance che è stata creata dallo staff del festival, da un workshop organizzato dall'associazione Zoopalco e Teatro di Servizi Obbedienti, che collaborano con noi, insieme a dei ragazzi che appunto hanno partecipato al workshop, e hanno creato questa performance multimediale proprio per l'apertura del festival. Quindi uno spettacolo assolutamente inedito e il risultato di tanto sforzo sicuramente è da non perdere. A seguire ci sarà questo concerto dei TIR, che sono un gruppo, sono due producer di elettronica di Rimini che abbiamo scoperto ultimamente, sono veramente fortissimi, assolutamente da non perdere. Da domenica poi inizierà il festival vero e proprio, quindi abbiamo sia la componente di musica elettronica in tarda serata, che il primo spettacolo di teatro, gli ospiti da Milano, il collettivo Tempi Diversi, che fanno un altro spettacolo, quindi assolutamente una giornata da non perdere. Da lunedì a sabato, a venerdì poi è difficile perché dovrete scegliere, perché lunedì inizia il cinema, che sarà, quindi avremo sia il cinema al Teatro Carriera che sempre la TDC, che andrà avanti fino a mercoledì, con 10 lungometraggi, di cui 5 internazionali, 2 che sono anche stati al Festival di Berlino negli anni scorsi, 3 film sono anche anteprime italiane, quindi assolutamente da non perdere. Lunedì Shuluk, che invece è un documentario italiano di una regista che vive a Bologna, l'appuntamento con il primo round di poesia orale, sempre al cinema, The Best of All Worlds, un film austriaco assolutamente da non perdere. Insomma, poi continuando potete trovare tutti il programma su Facebook, però ci sono tantissimi appuntamenti. Da giovedì e venerdì iniziamo anche, mercoledì sera abbiamo l'ultima festa finale della festa di mezzo, diciamo, da tenersi, con ospite Frank Bright, insomma una bellissima serata anche lì. Da giovedì e venerdì invece avremo gli appuntamenti anche al Mercato Sonato. No, infatti stavo guardando la giornata di venerdì con il contest delle band emergenti e anche questo tizio con la maschera, povera Jam plus Galley Live, mi sembra, esatto, una poetry jam, anche questo mi sembra una roba, mi sembra di essere a New York più che a Bologna. Mi intriga moltissimo questa serata di venerdì al Mercato Sonato. Sì, questa, allora, poetry jam, diciamo che è un evento organizzato da Zoopalco, che è un'associazione bolognese, di ragazzi proprio bolognesi, che si occupa di poesia orale, che collabora con noi dall'anno scorso, sono parte integrante del festival e dello staff del festival. Loro, tra l'altro, appunto, anche loro sono coinvolti nella performance di sabato sera a tenersi di Flusso. Il primo appuntamento sarà al cinema lunedì sera, sarà il primo appuntamento di microfono aperto, quindi chi era possibile iscriversi per chiunque partecipare a contest di lunedì. Venerdì ci sarà il secondo appuntamento, quindi ci sarà un vincitore lunedì, un vincitore decretato venerdì, lo spettacolo di Gary Live sempre venerdì sera, e la grande finale, la finalissima di poesia sarà proprio sabato sera, perché sabato sera, sabato 21 ad Aterersi avremo la festa finale, quindi partiremo uno spettacolo teatrale, Hamlet Machine, organizzato dall'Accademia di Belle Arti. Poi dopo proietteremo i film che avranno vinto, quindi che saranno già stati decretati vincitori, Il Mio Corto e Il Mio Lungo, e poi ci sarà le premiazioni delle altre categorie e questa finalissima di poesia orale. E poi dopo finiremo con la musica. Quindi tantissimi appuntamenti da non perdere. Veramente, no, mi sembra fantastico in realtà questo festival, proprio soprattutto per il coinvolgimento del pubblico, che è potenzialmente possibile, insomma, mi sembra molto aperto, che è una cosa che per esempio altri festival non troppo lontani dal vostro, in realtà qui a Bologna mi sembra che il pubblico sia molto relegato nel loro ruolo di pubblico, mentre invece questa è una cosa che mi piace moltissimo, devo dire. Sì, noi vorremmo sempre di più integrare il pubblico, è proprio uno dei miei sogni fin dall'inizio. Dicevamo all'inizio che il nostro obiettivo era quello di presentare un festival dove questi artisti scendessero un po' dal piedistallo e venissero a contatto col pubblico, ed è una cosa che assolutamente è sempre successa. Siamo favoriti dall'avere molti artisti indipendenti, che quindi non c'è quella calca di fan deliranti per qualche pseudo VIP, certo. Però diciamo che quello è sempre stato il nostro obiettivo, di avvicinare il pubblico nel modo più assoluto possibile. Abbiamo dei prezzi veramente molto bassi per permettere a tutti di partecipare, per tutti c'è la possibilità di fare qualsiasi domanda, incontrare gli artisti, incontrare noi, di collaborare, insomma. Power Artist cerca proprio di creare una scena nuova, un panorama, una rete in cui chiunque abbia una passione possa sentirsi assolutamente libero sia di chiedere un consiglio a un artista, sia di mettersi in contatto, sia di sviluppare una corrispondenza, una conoscenza. Noi crediamo che l'unico modo di crescere come artisti, ma anche solo come amanti, no? come fruitori d'arte, no? Anche la partecipazione attiva credo sia una cosa molto importante, molto bella, e la possibilità di crescere come spettatore, come conoscitore, come appassionato, come critico o come artista non può che prescindere dall'incontro con delle iniziative come la nostra, dall'incontro con gli artisti, e da vedere chi lo fa, come lo fa, e cercare sempre di rubare dei consigli, delle tecniche, delle modalità, insomma. Sì. Benissimo Fabrizio, io ti ringrazio moltissimo e ti faccio il mio in bocca al lupo naturalmente, e invito tutti da domani a venire ad Ateliersi all'inaugurazione iniziale alle 18 e poi a usufruire di tutto il festival fino abbiamo detto al 21, giusto? A sabato 21. Troverete su www.coxospaziale.blogspot.com il link a tutti i siti, al sito di Power Art, alla pagina Facebook, eccetera, così chiunque può avere tutte le informazioni necessarie. Sì, vi aspettiamo domani, che apre anche la mostra di fotografia e sarà possibile, diciamo, acquistare gli accrediti per assistere a tutti i festival o alle categorie che vi interessano maggiormente. Quindi da domani pomeriggio alla Teresi vi aspettiamo. Perfetto, grazie mille. Ciao, grazie a voi, aspetto anche voi. What you're not doing is what you're doing, is what you're not doing. Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Don't tell me what to see. Don't tell me what to do. Stavo quasi per dimenticarmelo che è uscito una nuova canzone di Jenny Owen Youngs, si chiama Won't Let Go of Me, ed è uscito tipo ieri l'altro, due giorni fa, il 5 aprile, per cui non da tantissimo. Me ne sono accorto in ritardo, ma non abbastanza in ritardo da non poterlo suonare oggi, il 13 aprile, a Coxo Spaziale. Il pezzo è Won't Let Go of Me, Jenny Owen Youngs. Radio Città Fujiko, cari amici di Radio Città Fujiko. Fujiko, una volta siamo saluto a te e sono Fujiko appena in tempo. Che schifo di stupidata. Cox spaziale, non l'ascolterò mai. Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale. Non c'entra niente, ma ho appena trovato su Kickstarter questo nuovo strumento musicale. Nuovo per modo di dire, è una roba a metà tra un flauto dolce e un sassofono e un'armonica. Si chiama saxmonica e suona così. Dopodiché possiamo salutare tutte le Moniche che conosciamo, la Monica Carrozzoni, che fra l'altro è il suo compleanno fra non molto, la bacio da lontano, la Monica Scarpari, che invece non so quando è il suo compleanno, ma bacio anche lei. Chi altro, quali altre Moniche ci sono? Una Monica Saponaro mi ricordo, però è un bel pezzo che io e lei non ci vediamo, comunque saluto anche lei. Achievers, come on all you underpass believers, we'll give you the skills for street living. It feels pretty great to just give in, so just give in. Dropouts, repeat offenders, sexually confused cross-gender benders. Time to declare autonomy. You can choose to choose your family. Chop down that family tree. Once you stop yourself from caring about owning stuff, that's when you wanna start sharing. Cause all the things we want are cheap or free. Stop cherishing life, cherish living, and you'll live like a king. We'll be right back. We just wanna live and let others live. Of course we'll take anything you wanna give. So fucking give. Come on, dance like a retard. Life's an endless party, not a punch card. I don't understand some people's drive. Let's just fucking drink and be alive. Not just survive. Molto bene, direi che anche questa volta Coxo Spaziale è finito e anche questa volta rimaniamo con le dolci parole del nostro direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, ci risentiamo venerdì prossimo alle 8 di sera, e sempre sui microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao!